gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao Como, sono Andrea Paolo di Allineamenti e vi volevo raccontare di quando a settembre sono stato a Bolzano. Il centro storico è stato chiuso per tutta la mattina per un disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Però io sono stato fortunatissimo perché l'ufficio del turismo aveva organizzato un viaggio in pullman per tutte le Dolomiti, con addirittura una guida. Questa guida, durante il viaggio in pullman, ci ha raccontato un paio di leggende. Una riguarda appunto proprio le Dolomiti e in special modo la catena del Catinaccio. Abbiamo visto questa roccia nuda, queste rocce bellissime, tuttavia c'è appunto questa leggenda che narra che esisteva un re abbastanza cattivo che si era innamorato della figlia di un mercante e l'aveva rapita. L'aveva portata nel suo palazzo e per farla innamorare aveva creato un giardino di rose. Questo re aveva anche poteri magici, quindi poteva nascondersi grazie ad una cintura che lo rendeva invisibile. Comunque il mercante non si arrese, chiamò il cavaliere più forte che c'era nei paraggi e gli chiese di liberare sua figlia. Il cavaliere andò a liberare la figlia, però intanto non riusciva a trovare il re, che appunto si era reso invisibile e si era nascosto. Si era nascosto proprio tra i cespugli di rose, e però il cavaliere, vedendo il movimento di questi cespugli, capì che il re si stava nascondendo lì, così riuscì a scoprirlo, togliergli la cintura e lasciarla al suo destino. Però il re, prima di morire, lanciò una maledizione. Mai più occhio umano avrebbe visto questa distesa di rose né di giorno né di notte. E questo è il motivo per cui noi vediamo al tramonto, che non è né giorno né notte, le Dolomiti colorarsi di rosa. Un'altra leggenda che ci ha raccontato la guida è stata quella della ninfa Ondina. La ninfa era bellissima, cantava dolcemente e fece innamorare anche un altro mago. Questo mago chiese consiglio ad una stregona come fare innamorare la ninfa e la strega gli disse: crea un arcobaleno bellissimo tra il Catinaccio e un'altra montagna, travestiti e la ninfa sarà tua. Il mago creò l'arcobaleno, un arcobaleno stupendo da mille colori, però dimenticò di travestirsi. La ninfa, appena lo notò, si rituffò nel lago e così questo mago non riuscì a catturarla. Arrabbiato, distrusse in mille pezzi l'arcobaleno e gettò tutti i pezzi nel lago. E questo è il motivo per cui il lago di Carezza ha migliaia di colori. Grazie dell'ascolto e buonanotte. One look from you, a dream. forgot it.